Adesso che sei bello e tranquillo, senza stress e in piena forma, smetti. Anzi, continua ad occuparti di te e prova a smettere di fumare. Ce l'hanno fatta in tanti, anche Flavio Insinna. Sentiamo. Bisogna dire basta e lo dico, voglio dire, sapendo quello che vado a dire, perché ci ho rimesso a suo tempo anche una corda vocale, nel senso che sono dovuto operare perché lo sforzo lavorativo unito alle sigarette, ad esempio, una delle mille miliardi di cose negative che fa è quello. Ho cercato di cambiare quelle abitudini che portano alle sigarette, cioè il caffè dopo pranzo. Sembrerà una sciocchezza, però se ti offrono una sigaretta, ad esempio, è meglio dire grazie non fumo e non grazie ho smesso, perché molto spesso c'è chi dice sì hai smesso ma da quanto, dai su fumatene una. Se uno categoricamente, anche se il giorno dopo che ha cominciato a non fumare, dice che non fumo, è diverso, sembrerà una fesseria ma è così. Devo dire, non c'è un pregio, cioè quello che in realtà bisognerebbe continuare a dire come un disco è che non c'è un pregio nel fumare. Capelli, sangue, cuore, qualunque prestazione, fare le scale, fare uno scatto, giocare a pallone, non parliamo della zona appunto dei cancri, i tumori, la pelle, i denti, le dita, il giallo, il fumo, e baci la tua ragazza e le sembra di baciare un portacenere, non c'è un pregio, quindi proviamo a smettere, io uso il plurale, diamoci una mano, stiamoci vicini, e in più in tutto questo costano pure, neanche sono gratis.